GR Europa. Il risultato elettorale in Italia è una questione molto delicata per l'Italia e per l'Europa. C'è bisogno di un governo stabile perché quello che succede in Italia, che è un paese del G8 e uno dei pilastri dell'Eurozona, ha conseguenze in tutta l'UE, negli Stati membri e nelle istituzioni. Così Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, questa mattina a commento appunto dell'esito elettorale nel nostro paese. Ma un punto generale da Bruxelles con Beda Romano. C'è evidente nervosismo in Europa per l'esito del voto italiano. Il rischio di ingovernabilità è evidente e mette in pericolo quella flebile stabilità che la zona euro era riuscita a ottenere nelle ultime settimane. In privato, esponenti comunitari non nascondono la loro preoccupazione per il nuovo nervosismo dei mercati finanziari. Si interrogano se sia meglio tornare a votare o puntare su un governo di grande coalizione. Stamani il ministro degli esteri tedesco Guido Westerwelle ha esortato l'Italia a non cambiare politica economica rispetto al recente passato. Un altro esponente tedesco, il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz, ha avvertito che l'Europa ha bisogno di un governo stabile a Roma, ricordando che gli avvenimenti italiani non possono non avere conseguenze anche sugli altri paesi europei. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Riforme nei prossimi tre mesi, questo ha chiesto Bruxelles all'Ucraina nel corso del summit che si è svolto ieri appunto nella capitale belga. Kiev si impegna in questo senso, ma sullo sfondo incombe l'ombra di Mosca. Fino a maggio il vertice Europa-Ucraina produce un'intesa interlocutoria che allunga di altri tre mesi la scadenza affinché Kiev porti a termine le riforme richieste. Bruxelles in cambio mantiene aperta la porta a un accordo di associazione oltre che a un sostegno finanziario d'intesa con l'FMI in favore del paese est europeo. Questi i principali risultati di un summit che non ha sfiorato almeno ufficialmente il tema della detenzione dell'ex leader Yulia Tymoshenko e quando l'ha fatto è stato solo in modo indiretto. Bruxelles ha chiesto a Kiev la riforma del sistema giudiziario e lo stop alla giustizia selettiva, così come significativi cambiamenti della legge elettorale. Sullo sfondo resta un tira e molla geopolitico che vede proprio l'Ucraina al centro della contesa. Mosca intende attrarre Kiev all'interno della propria orbita di influenza disegnata intorno all'Unione Doganale Euroasiatica, unione che include Russia, Bielorussia e Kazakistan. Bruxelles ribatte che l'Ucraina deve scegliere se aderisce all'orbita di Mosca, non può siglare un'intesa per l'adesione all'area di libero scambio con l'Europa. A renderlo chiaro è stato il presidente della Commissione Barroso. A maggio Bruxelles e Kiev verificheranno i progressi fatti. L'obiettivo è chiudere l'accordo di associazione senza altri intoppi entro novembre. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per GR Europa è tutto. Un saluto da Gigi Donelli. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.